Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quando ci guardano ai modelli, e ogni tanto ci pare che il Presidente del Consiglio ci abbia un po' troppo in mente il modello della Thatcher, quando si guardano i modelli bisognerebbe guardare non solo ciò che è successo durante, ma anche che conseguenze ci sono state. La conseguenza di quel modello, del modello degli ultimi 20 anni nel nostro Paese, è la conseguenza di un paese che è innanzitutto poco competitivo perché ha svalorizzato il lavoro. Insomma, un Renzi Thatcher, così dice Susanna Camusso, leader della CGIL, che è entrata molto duramente in polemica sull'articolo 18, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, no? Della riforma del lavoro e di questo che qualcuno chiama tabù, qualcun altro dice che è lo scalpo ideologico per una lotta di classe, politica, eccetera, eccetera, tra imprenditori, lavoratori e così via. Ma ai sindacati che minacciano lo sciopero, anche la Camusso insomma l'ha ribadito che ci potrebbe essere questa possibilità. Ieri che cosa ha detto Matteo Orfini, presidente del PD, proprio qui a Effetto Notte? Nel caso, la mia domanda era questa, la CGIL dovesse scendere in piazza. Che devo fare? Vedrò al telegiornale come è andata la manifestazione. È del tutto legittimo che i sindacati manifestino il loro dissenso, l'hanno sempre fatto ed è del tutto legittimo che lo facciano con ogni governo. Naturalmente in alcuni casi hanno ragione, in altri hanno torto. Questo continua a essere un argomento in primissimo piano anche oggi, che è l'ultimo giorno della settimana, prima settimana della nuova stagione di Effetto Notte. Torneremo a toccarlo brevemente, però poi i temi che svilupperò insieme agli ospiti questa sera saranno anche altri. Iniziamo dai principali. Quindi riforma del lavoro, la CGIL attacca il governo e Renzi replica ai sindacati: avete difeso voi le ideologie. Scozia e i scozzesi scelgono l'Unione, al voto vincono i no, la regina commenta. Ora andiamo avanti, intanto in Spagna la Catalogna dà il via libera alla legge per il referendum. Maltempo, bomba d'acqua sulla Toscana, allagati anche gli Uffizi a Firenze, 5 feriti per il crollo di una scuola. Processo Mediaset, alla Corte Europea di Strasburgo esaminerà uno dei ricorsi di Berlusconi. Follia in Florida, un uomo uccide la figlia e 6 nipotini e si toglie la vita. Il pregiudicato nel 2001 uccise il figlio in quello che fu definito un incidente di caccia. Sbarchi in borsa, Alibaba o Alibaba, a seconda di come si voglia pronunciare, straccia ogni record, esordio col botto a Wall Street fa più 36%. Appalti per il G8, confisca di beni per 13 milioni ad Angelo Balducci, l'ex provveditore delle opere pubbliche di Roma e presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, beni immobili, quote societarie, conti e autoveicoli. L'orso ucciso in Abruzzo, confessa il 61enne indagato, rischia sino a 2 anni. Niente Costner, la pattinatrice non si presenta all'interrogatorio per chiarire la vicenda del fidanzato accusato di doping. E quindi, come iniziato prima, esordito insomma sulla questione del lavoro, partiamo da questo. Il dibattito, diciamo lo scontro in realtà, è sempre più incandescente, spaccature profonde all'interno del PD e i sindacati ormai sul piede di guerra contro il governo. La leader della CGIL Susanna Camusso, avete sentito, non risparmia critiche e il governo replica: siamo determinati ad andare avanti. E Renzi accusa i sindacati di averla creata loro la precarietà. Fuoco incrociato sul governo per le modifiche al Jobs Act, tante le critiche a Palazzo Chigi, dallo stesso Partito Democratico a testa bassa anche il sindacato. Siamo pronti allo sciopero, Renzi ha in mente la Thatcher, dice il leader della CGIL Susanna Camusso. E ogni tanto ci pare che il Presidente del Consiglio ci abbia un po' troppo in mente il modello della Thatcher. Quando si guardano i modelli bisognerebbe guardare non solo ciò che è successo durante, ma anche che conseguenze ci sono state. Renzi vuole fare il figo in Europa, è il momento di mobilitarsi, attacca Landini, Fiom che anticipa al 18 ottobre la manifestazione nazionale. Bordata al Premier e alle novità della delega sul lavoro dalla minoranza PD, presenteremo molti emendamenti, sarà battaglia, dice Bersani, non siamo d'accordo nello svendere lo statuto dei lavoratori, commenta Civati. Pronta la replica di Renzi ai sindacati, avete difeso le ideologie e non le persone, dove eravate quando si è prodotta l'ingiustizia del lavoro precario? Toni duri anche da Del Rio. Le discussioni aiutano tutti a migliorarsi e l'importante è che non vi siano ultimatum. Stop agli slogan e basta con i totem ideologici, aggiunge Alfano. Le opposizioni quindi per il superamento dell'articolo 18, Brunetta, Forza Italia, diversa la posizione dei 5 Stelle, Renzi getta la maschera sull'articolo 18 e il PD va in frantumi, commenta Petrocelli. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi in primissimo piano naturalmente anche il referendum scozzese, la Scozia, avete sentito, siete resi conto insomma in giornata, e se no lo sentite qui effetto notte, resta nel Regno Unito. Il no all'indipendenza raggiunge il 55,30%, il sì si ferma invece al 44,70%. Un risultato comunque storico che registra anche il record di affluenza alle urne, c'è stato un 84,59% di scozzesi, e che avrà comunque delle conseguenze. Di questo parleremo poi più tardi qui effetto notte. Intanto il Parlamento catalano, a proposito di indipendentisti, ha approvato in serata la legge con la quale vuole dare copertura legale alla convocazione di un referendum indipendentista rispetto alla Spagna il 9 novembre. La normativa ha ottenuto 106 voti a favore e 28 contrari, anche di questo cercheremo di capire i contorni più tardi. Poi invece sulle questioni italiane, il maltempo con la tempesta di grandine che si è abbattuta a Firenze attorno alle 12.30 oggi, poteva andare peggio, ha detto il sindaco, e peggio è andata in alcuni comuni toscani, una scuola addirittura crollata con dei feriti, però poi ci collegheremo direttamente con Firenze per capire quali sono i danni e com'è adesso soprattutto la situazione, e poi ci sarà anche il colonnello Giuliacci a dirci che tempo ci sarà invece nel fine settimana. Ora il processo Mediaset. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso che esaminerà almeno uno dei ricorsi presentati dai legali di Silvio Berlusconi in merito alla sentenza definitiva del processo Mediaset, che ha visto, come sapete, l'ex premier condannato per frode fiscale il 1 agosto 2013. Lo ha detto Piero Longo, che è uno degli avvocati di Berlusconi. E poi è stata indagata ufficialmente Nunzia Di Girolamo. La Procura di Benevento ha chiuso le indagini preliminari relative a un presunto giro di truffe e fatture false ai danni dell'ASL di Benevento, notificando 10 avvisi di conclusa indagine, tra loro appunto l'ex ministra. È stata, a proposito di terrorismo dell'ISIS, è stata rafforzata la sicurezza intorno a San Pietro dopo l'allerta su possibili attacchi terroristici contro il Papa e il Vaticano, mentre sono cominciati anche i bombardamenti francesi contro l'ISIS. La Francia passa all'azione sul fronte iracheno. Caccia dell'esercito transalpino hanno compiuto i primi raid aerei nel nord-est del paese, attaccando postazioni dell'ISIS. I Rafale hanno puntato contro alcuni depositi logistici dello Stato islamico, distruggendoli completamente. J'ai décidé de répondre à la demande des autorités irachienne. Altre operazioni sono previste nei prossimi giorni, ha annunciato il presidente François Hollande. Mercoledì è previsto un dibattito parlamentare all'Assemblea nazionale. Se gli attacchi dovessero cedere i 4 mesi, l'Eliseo dovrà ottenere il via libera dei deputati. Hollande ha comunque escluso il coinvolgimento di soldati francesi di terra e ha puntualizzato che gli attacchi avverranno solo in Iraq e non in Siria. Con i raid aerei, la Francia è il primo paese a intervenire operativamente contro l'ISIS a fianco degli Stati Uniti. La Gran Bretagna per il momento si è limitata a voli di ricognizione. Intanto James Clapper, capo degli 007 americani, ha ammesso che Washington ha sottovalutato l'ISIS e la sua volontà di combattere, lo stesso errore che facemmo in Vietnam. Clapper ha aggiunto che gli Stati Uniti non si sono resi conto dell'imminente collasso delle forze armate irachene. La Turchia nel frattempo ha aperto il proprio confine a centinaia di profughi curdi siriani in fuga. Infine, dopo l'allerta su possibili atti terroristici contro il Papa o il Vaticano, il dispositivo di sicurezza intorno a Piazza San Pietro è stato raddoppiato. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. Intanto vedo già alcuni vostri messaggi, sia al 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Tina sul referendum scozzese dice: se avessero votato tutti con il cuore, oggi la Scozia sarebbe indipendente. Sapete, si diceva si vota o con la testa o con il cuore. Cosa ne pensate dell'esito del voto scozzese? Potete scriverlo sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso gli sms. Ma restiamo sulle questioni anche italiane, con i maxi sequestri di beni che ricorderete a proposito della cosiddetta cricca degli appalti del G8. Immobili di lusso, auto di grossa cilindrata, conti correnti bancari. È il tesoro che la Guardia di Finanza ha sequestrato ad Angelo Balducci per un valore complessivo di 13 milioni di euro. Ex provveditore alle opere pubbliche di Roma e presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Angelo Balducci balzò alle cronache per la cosiddetta cricca degli appalti. È al centro di indagini delle procure di Roma, Firenze e Perugia. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, quella cricca era un fenomeno esteso e organizzato di malaffare, spiega la Guardia di Finanza, definito da alcuni dei soggetti intercettati come sistema gelatinoso, un sistema che secondo gli investigatori usava metodicamente corruzione e articolati illeciti tributari per camuffare tangenti e consentire l'assegnazione di appalti ad un numero chiuso di imprese favorite, prime fra tutte quelle di Diego Anemone. È uno dei primi casi in cui il sequestro di beni avviene non per appartenenza al crimine organizzato, quanto piuttosto per il ripetuto coinvolgimento nei cosiddetti reati dei colletti bianchi. Stefano Totoro, Radio 24, il Sole 24 Ore. Yeah. E parliamo anche di violenza sulle donne, perché il ministro Orlando ha annunciato un piano d'azione entro ottobre. Il governo ha detto ha assunto l'impegno di adottare il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale di genere entro il prossimo mese di ottobre. I lavori per la sua predisposizione sono già ripartiti e vanno verso la conclusione, lo ha detto il ministro in un intervento scritto inviato alla conferenza sulla violenza contro le donne che si è tenuta oggi alla Camera. E adesso vi ricorderete naturalmente tutte le polemiche sull'orsa Danizza uccisa e poi a pochi giorni dopo anche un orso in Abruzzo. Ebbene, ha confessato l'operaio indagato per aver sparato all'orso marsicano nel parco d'Abruzzo. Trovato il colpevole dell'uccisione dell'orso marsicano. È un operaio di 61 anni residente a Pettorano sul Gizio in provincia dell'Aquila ad aver sparato con un fucile all'animale venerdì scorso. Sono stato io, ha confessato l'uomo che avrebbe reagito ad un'aggressione dell'orso alle sue galline. Durante le indagini dei giorni scorsi i forestali gli avevano sequestrato munizioni e 6 fucili regolarmente registrati. Uccisione di animale di specie protetta e violazione della legge sulla caccia. Queste le accuse che gravano ora nei suoi confronti e per le quali rischia da 4 mesi a 2 anni. La Lega Antivivisezione si dichiara soddisfatta delle indagini, ma chiede a governo e Parlamento di reintegrare la legge 189 con l'applicazione di misure cautelari per chi si macchia di tali crimini, al fine di evitare la reiterazione del reato. Marcella Vezzoli, Radio 24, Sole 24 Ore. E per chiudere lo sport, da un punto di vista naturalmente particolare, quello del doping, Carolina Kostner non si è presentata alla convocazione in procura antidoping del CONI, avrebbe dovuto rispondere per le vicende del suo ex fidanzato. Aspettando Carolina, che come Godot alla fine non si è presentata. La plurimedagliata pattinatrice era attesa a Roma all'audizione dell'ufficio di procura antidoping del CONI in merito al caso Alex Schwarzer, l'ex fidanzato e marciatore azzurro squalificato fino al 2016 perché trovato positivo a un controllo. La Kostner, che in procura avrebbe dovuto rispondere di complicità e omessa denuncia, ha saltato la convocazione ufficialmente per impegni di lavoro. L'ufficio antidoping, che aveva risposto a una richiesta di rinvio anticipando l'audizione di qualche ora, dispone in una nota una seconda e ultima convocazione di Carolina Kostner. Se ancora non dovesse presenziarvi, scatterebbe per lei il deferimento diretto. Federico Fumagalli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per il momento direi abbiamo finito questa prima parte. Intanto, prima di aggiornare chi sta viaggiando, leggo qualche messaggio arrivato. Per esempio, Cristiano invece punta sempre sulla questione del lavoro. È un terreno scivolosissimo quello del lavoro, dice: certo, molto è cambiato nel tessuto sociale per lasciare ogni norma intatta e senza uno sguardo severo sul presente. Sarei per una modulazione graduale, ma a condizione che l'asse delle tutele resti solido. Istinto sto con i sindacati, Renzi sa troppo di destra mascherata, dice Cristiano. E poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte Arturo scrive invece a proposito della Scozia: il problema è che la vera Unione Europea è quella dei poteri economici, l'Unione dei Popoli è solo un imbroglio, un'illusione. Daniele scrive: il mondo si globalizza, non si localizza, hanno ottenuto il massimo da Londra i scozzesi, ora lo sfruttino bene. Quindi potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte sulla Scozia o su altri temi, e così i messaggi al 349 238 6666. Dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi sull'esito del referendum scozzese, vi riassumo brevemente, visto che c'è stata una pausa, quali sono stati i fatti di primo piano oggi, e poi andiamo proprio su questo tema. La Scozia, gli scozzesi scelgono l'Unione, al voto vincono i no, la regina commenta, ora andiamo avanti. E intanto c'è la Catalogna che è in fibrillazione in Spagna e dà il via libera alla legge per il referendum. Ma il tempo, una bomba d'acqua proprio sulla Toscana oggi, allagati anche gli Uffizi a Firenze, 5 feriti per il crollo di una scuola. Processo Mediaset, la Corte Europea di Strasburgo esaminerà uno dei ricorsi di Berlusconi, e c'è stato un eccezionale sbarco in borsa, quello di Alibaba, che straccia ogni record, un esordio col botto a Wall Street fa più 36%. E poi l'avete sentito, l'orso ucciso in Abruzzo confessa, il 61enne indagato e rischia adesso anche 2 anni. Sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349 238 6666 potete continuare a scrivere le vostre riflessioni su questo voto della Scozia. Andrea, per esempio, Andrea D'Agostino scrive: questa cosa dell'indipendenza regionale è un'enorme stupidaggine, un popolo e una nazione sono ben più di un dialetto. Mentre Sebastiano, più o meno sulla stessa falsariga, dice: questo è un periodo buio per l'Europa, l'Unione fa la forza, quindi per la Scozia è stato il migliore risultato possibile. E saluto Francesco De Remigis proprio dalla Scozia. Ciao Francesco. Eccoci, buonasera Roberto, buonasera agli ascoltatori. Allora, dicevamo, quindi la Scozia resta nel Regno Unito, il no all'indipendenza ha raggiunto il 55,30%, il sì si è fermato al 44,70%, quindi non è stato proprio sul filo di lana, è stato un po' più abbondante il voto per il no. Però è un risultato comunque storico, intanto perché si è arrivati a questo referendum e poi perché gli scozzesi otterranno una serie di agevolazioni, di maggiori competenze, di potere, eccetera. Però intanto oggi la Scozia come ha vissuto, Francesco, visto che sei lì, questo risultato? Allora, diciamo che dalla mattina alla sera sono cambiati tantissimi umori e le stesse sensazioni, perché se la regina dice adesso andiamo avanti non si capisce bene quale sia il punto di arrivo, perché se è vero che adesso la Scozia otterrà in qualche maniera delle diciamo agevolazioni, in particolar modo si andrà avanti sul passo della devolution su diversi dossier, non si capiscono bene i tempi, e da questo, diciamo, dal lato di chi ha votato contro l'indipendenza, ascoltando quelle che erano state le promesse dei principali leader inglesi, in particolar modo quelle del primo ministro David Cameron. Ma anche sul fronte, diciamo, degli indipendentisti regna una certa confusione, perché questa mattina ci siamo svegliati ancora prima dell'alba con le dichiarazioni di Alex Salmond, il premier scozzese e il leader del fronte indipendentista, che sostanzialmente ammetteva la sconfitta, ma neppure troppo, e rivendicava quel 1.600.000 preferenze per l'indipendenza, finché a un certo punto nel pomeriggio ha annunciato che si sarebbe dimesso, non subito, ma a novembre, in vista del cambio, diciamo, di leadership nello Scottish National Party. E a molti è sembrato un po' un cambio di marcia, ma anche un cambio di argomenti e di temi, perché dal parlare di referendum si è iniziato un po' a parlare del futuro politico della Scozia nel giro di pochissime ore. Molti hanno, diciamo, sostenuto che fosse stato già un passo concordato in caso di sconfitta e potrebbe in questa maniera agevolare l'avanzata di quella che è la sua vice, questa donna molto ambiziosa che nel partito viene piuttosto tollerata, non è stata amata, ricorda in qualche maniera un po' quella che era stata la figura anche di Sarah Palin negli Stati Uniti, che era la vice della campagna elettorale. Esatto, esattamente. Quindi però non è piaciuta, diciamo, neppure troppo questa mossa di annunciare le dimissioni in un giorno così delicato, dopo le dichiarazioni del mattino, a molti dei sostenitori dell'indipendenza, perché lo ricordiamo, non tutti i sostenitori dell'indipendenza su questo referendum sono anche sostenitori dello Scottish National Party, cioè un movimento trasversale, eterogeneo, quello del sì all'indipendenza, e quindi molti si sono trovati spiazzati da questo annuncio e da questa mossa di Alex Salmond. Si sarà stufato, sarà rimasto talmente ferito nell'orgoglio? Ma non ha dato spiegazioni, Francesco? Diciamo che ha detto molte delle sue parole retoriche che si dicono in tanti di questi casi, come aveva già fatto durante la campagna elettorale, dicendo che comunque ci deve essere spazio anche per nuovi volti nel partito, sarà il partito, attraverso un percorso anche interno di discussione, a far emergere una nuova leadership, ma di fatto lui non è affatto un personaggio che lascia il passo così per caso. È abbastanza evidente a tutti che la mossa è sembrata abbastanza opportunistica in qualche modo, perché lui esce molto indebolito da questo referendum e alle prossime elezioni lo Scottish National Party ha una ambizione importante, cioè quella di portare più membri nel Parlamento di Westminster. Oggi ne ha meno di 10, mi pare che siano 6 se non sbaglio, e vorrebbe raddoppiarli. Ovviamente con la sua leadership dopo questa sconfitta tutto diventa più complicato, e quindi diciamo che è stato un momento anche per salvare il salvabile in qualche modo su questo partito che ha portato avanti la battaglia indipendentista. Ma ripetiamo che non sono tutti i sostenitori dello Scottish National quelli che hanno votato sì all'indipendenza, quindi non l'hanno presa proprio bene a Edimburgo, soprattutto a Edimburgo, dove ricordiamo ha perso notevolmente, diciamo, il fronte indipendentista rispetto a quello unionista. Grazie Francesco De Remigis dalla Scozia. Sentivo della musica o dei canti dietro di te, sei in un pub a bere birra? Sì, esattamente, esattamente. L'orecchio. Dove ci sono ancora oggi, diciamo, delle manifestazioni di interesse a quello che è il proseguo del referendum. Ricordiamo che a Edimburgo i pub sono molto divisi, diciamo, principalmente la working class, quella che frequenta i pub un pochino più rustici in qualche maniera, sono notoriamente supporter del sì all'indipendenza. Poi ci sono i localini un pochino più chic che devono anche stare un pochino accorti in queste ore, perché la polizia ha già segnalato degli episodi di, diciamo, non gradevoli, di insulti nei confronti delle persone che avevano votato sostanzialmente contro l'indipendente. Grazie Francesco De Remigis, buona birra allora. E intanto saluto il professor Edoardo Bressanelli. Buonasera professore. Buonasera a lei, ascoltatore. Docente di scienza politica per la LUIS di Roma, LUIS School of Government, e attualmente insegna alla London King's College. Dicevamo, si è dimesso Alex Salmond, il primo ministro scozzese e leader di questo movimento indipendentista, però perché si è detto sconfitto, si è ritenuto sconfitto, ma questa sconfitta effettivamente non c'è, insomma, del guadagno mi pare che ci sarà, perché ormai la storia anche del rapporto tra Scozia e Gran Bretagna dovrebbe cambiare, perché ora si dovrebbe infatti aprire un processo simil federale, no, di super devolution, quindi dei guadagni ci saranno in ogni caso, segnato un passo, professore. Professor Bressanelli, ce l'abbiamo? Non c'è? È caduto. Vediamo se riusciamo a recuperarlo intanto. Il professor Bressanelli, io stavo riflettendo lungamente su questa cosa e ritorno sui vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte. Corrado dice: è stata una buona occasione sprecata. Nino scrive: hanno fatto un miracolo, la Lega se lo sogna un risultato simile da noi. E poi invece, secondo Brigitte, hanno fatto bene che Unione fa la forza, cioè hanno fatto bene a far vincere i no, a votare per restare nell'Unione. Tra l'altro la Gran Bretagna è uno stato particolare, perché poi è formato di quattro stati, che sono l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord. Quindi mi piacerebbe chiedere al professor Bressanelli se lo recuperiamo, anche come lo si può definire, a parte monarchia costituzionale, la Gran Bretagna non è comunque uno stato federale, però comunque ci sono questi quattro stati che lo compongono. E anche il professore è dalla Gran Bretagna, quindi evidentemente c'è una difficoltà di collegamento per il momento, e quindi continuerò con i vostri messaggi. Basta con questa sciocchezza dell'Unione che fa la forza. I sistemi più sono grandi, meno sono efficienti, scrive Luca. L'Europa e l'euro sono state una grossa fregatura. Il nostro potere d'acquisto si è dimezzato di colpo. Stiamo pagando a carissimo prezzo le conseguenze di una crisi provocata da gente che parla una lingua diversa. Noi stessi, nel nostro piccolo paese, non siamo in grado di scegliere la nostra classe politica. Così scrive Luca, mi pare un po' amareggiato e disilluso rispetto all'Unione, Unione Europea, l'Unione che fa la forza. Riusciamo a recuperare allora il professor Bressanelli? Niente, ancora non ce la facciamo? Un attimo, mi dicono, evidentemente è difficile raggiungerlo, e allora continuo con i vostri messaggi ancora. C'è, eccolo qua, professor Bressanelli. Professore? Buonasera, chiedo scusa, è saltata la connessione. Faccio molto bene, buonasera. Vediamo se riusciamo allora a sintetizzare in questi minuti che ci rimangono, professor Bressanelli. Dicevo che comunque ha un guadagno la Scozia. Adesso Alex Salmond, il primo ministro scozzese, che è stato quello che ha riuscito ad ottenere questo referendum, si è dimesso, forse perché si è sentito sconfitto, ma in realtà non è che è stata una grande sconfitta questa, no? Perché le promesse sono state fatte da Cameron, primo ministro britannico, nei confronti della Scozia, dovrà mantenerle adesso a proposito di una super devolution, quindi più competenze fiscali, più poteri, più, ecco. Senz'altro, era quando dicevo, sì, appunto, la linea sfortunatamente è caduta. Beh, fino a qualche mese fa, senz'altro un risultato del 45% quasi per gli indipendentisti sarebbe stato salutato come un risultato eccezionale. Ricordiamo che un anno fa i sondaggi davano l'indipendenza della Scozia al 35% più o meno. Quindi questo è un grande risultato comparato a quelle aspettative. Non dimentichiamoci che la città di Glasgow, che è la più popolosa della Scozia, si è espressa a favore dell'indipendenza, e fino a ieri sembrava che il grande sconfitto potesse essere Cameron, perché Cameron fosse stato il primo ministro identificato con la fine del Regno Unito, molto probabilmente avrebbe avuto i suoi problemi a mantenere unito il partito conservatore e a stare ancora in sella alla guida del governo inglese. Oggi invece parliamo di uno scenario completamente diverso, con Alex Salmond che si dimette, con Cameron che può cantare vittoria, e persino con il vecchio leader laburista Gordon Brown resuscitato a un ruolo di star nella politica inglese. Professor Bressanelli, però dicevo prima, il Regno Unito ha una configurazione un po' particolare, perché in realtà è unito da quattro, cioè composto da quattro stati, quindi l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord, perché anche la Scozia ha il suo primo ministro, che è proprio Salmond, che si è dimesso. Non è in realtà uno stato federale come può essere la Germania, la Svizzera o gli Stati Uniti. E come lo si può quindi definire, a parte monarchia costituzionale? Però insomma sono quattro stati che stanno insieme nel Regno Unito, per l'appunto. Come lo definirebbe? Assolutamente. Assolutamente, tradizionalmente il Regno Unito è stato uno Stato molto centralizzato, il processo di devoluzione dei poteri verso la Scozia e in misura minore verso il Galles ha preso piede negli anni 90 con il governo Blair, che ha fatto appunto una serie di atti di natura quasi costituzionale o totalmente costituzionale, in cui i poteri su determinate materie di politica, di policy sono stati devoluti alla Scozia e, come dicevo, in misura minore al Galles. Beh, ora il punto è se davvero questo processo avrà un'ulteriore accelerazione, cosa che sembra molto probabile, con una quasi federazione nascente in cui gli scozzesi decideranno su ancora maggiori politiche per la Scozia, e anche gli inglesi, e questa è una grande differenza che nell'agenda attuale di oggi della politica, e anche gli inglesi saranno in grado di decidere molto di più sul futuro dell'Inghilterra. Quindi comunque questo referendum ha segnato un consistente cambiamento, al di là delle apparenze. Professor Bressanelli, io intanto la ringrazio. E le auguro buon lavoro, buona continuazione a Londra. Grazie a lei. Si trova bene lei da quelle parti? Professore? Tutto bene. A Londra la situazione... Sì, a Londra la situazione è molto più tranquilla, devo dire, che dove il collega si trovava prima. Insomma, le celebrazioni o nei pub non sono così legate, insomma, al risultato elettorale. Diciamo, Londra è molto più lontana rispetto a quelle che sono le celebrazioni o, come dire, i dispiaceri annegati nella birra in altre zone del Regno. Ho visto un po' facce veramente amareggiate. Grazie, professor Bressanelli. La regina anche mi pare che sia stata piuttosto contenta. Adesso ci fermiamo, prendiamo una pausa. Voi potete continuare a scrivere i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms al 349-238-6666. Poi affronteremo un tema molto collegato a questo, che riguarda però la Spagna. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, le notizie adesso ve le riassumo. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi sull'esito del referendum in Scozia. Per esempio Alessandra dice: ma vai, i secessionisti hanno perso seccamente in un referendum, 10 punti percentuali in meno, sono una vera disfatta, anche se abbiamo sentito che ci sono delle conseguenze, poi non soltanto in Gran Bretagna. Tra poco sentiremo, ma le notizie principali di oggi sono state queste. Renzi sfida i sindacati sull'articolo 18, riforma del lavoro, dice difendete le ideologie, quindi insomma, c'è uno scontro a sinistra sul lavoro. La Camusso, segretaria della CGIL, dice Renzi è come la Thatcher, in Scozia vince il no, sollievo dell'Europa, volano le borse e la sterlina ai massimi, sorride la regina mentre il leader scozzese Salmond si dimette. Prima vittoria per quanto riguarda l'Italia di Berlusconi a Strasburgo, che gli dà il via libera a uno dei ricorsi sul processo Mediaset. E poi allarme ISIS, è raddoppiata la sicurezza a San Pietro, intanto ci sono i primi raid dei caccia francesi contro l'ISIS in Iraq. Abbiamo parlato di questo sbarco in borsa col botto di questo Amazon cinese Alibaba, di cui poi parleremo, e poi l'orso ucciso in Abruzzo con la persona indagata, un 61enne che ha confessato e adesso rischia sino a 2 anni. E adesso continuiamo a parlare di Europa, ma di Europa che si vuole dividere. Europa 24 notte. Quindi dicevamo la Scozia e poi la paura dell'Europa di un effetto domino, ma effettivamente c'è anche un'altra regione all'interno di una nazione, un territorio all'interno di una nazione come la Spagna, che è tanto tempo che si vuole separare, vero Sergio Nava? Ed è la Catalunya, la regione di Barcellona, che con ovviamente un tempismo calcolato, proprio stasera, ed è una notizia più fresca, ha varato col Parlamento catalano, la Generalitat ha varato la legge sulle consultazioni referendarie non vincolanti, che è di fatto la premessa necessaria per indire un referendum il 9 novembre. La data c'è già, i catalani hanno deciso il 9 novembre, voteranno sulla possibile indipendenza catalana. Le domande saranno due: volete la Catalogna sia uno Stato? E la prima domanda, la seconda domanda è: la Catalogna in questo caso dovrebbe essere uno Stato indipendente? È un po' complessa la formulazione. Anche però, Sergio, qui la differenza però è che mentre la Gran Bretagna aveva riconosciuto la validità di questo referendum, mi pare che in Spagna, Madrid... Spagna no, anzi si sta preparando uno scontro politico molto molto duro tra il governo centrale. È tutto incredibilmente concatenato. Stasera l'approvazione di questa legge per le consultazioni. A ore il presidente catalano, regionale catalano Mas, dovrebbe firmare la convocazione del referendum, indicendolo e anche, diciamo, anche approvando ufficialmente, ponendo il suo, come dire, sigillo su questa legge. E nel weekend il Consiglio dei Ministri spagnolo, col Premier Mariano Rajoy, farà ricorso, è già tutto previsto e scritto, farà ricorso per invalidarla al Tribunale Costituzionale. Quindi si apre uno scontro politico fortissimo tra il governo centrale e una regione del paese. Dici solo una cosa, perché questa regione vuole dividersi anche da tanto tempo? Ci sono ragioni storiche, cioè culturali, storiche. Tutti ancora ricordano una battaglia combattuta tra le truppe borboniche e le truppe austriache 300 anni fa, quando, diciamo, la Catalogna e i paesi catalani entrarono a far parte del Regno di Spagna. Ci sono culturali, il catalano è una lingua diversa dallo spagnolo, c'è anche una cultura, una letteratura diversa, e ci sono soprattutto questioni economiche. La Catalogna è probabilmente la regione più ricca di Spagna, con la crisi ha sofferto particolarmente, e chiaramente questo ha fomentato ulteriormente il desiderio indipendentista di molti, tanto che i sondaggi danno ormai una metà contro metà, metà e metà. Anche lì. Cioè sì. A differenza del caso scozzese, è possibile, molto possibile, una maggioranza di sì, e a quel punto chiaramente la Spagna ha paura di perdere non solo la regione più ricca, ma di aprire il vaso di Pandora di altre possibili secessioni, i Paesi Baschi per esempio. Adesso vedremo, appunto, dovrebbe succedere in novembre questo, ma vedremo anche con quale profilo, insomma, dato che, appunto, come dicevamo, la Spagna non riconosce, non ritiene legittimo questo referendum. Che reazioni ci sono state, dato, perché la notizia è di stasera, no? Che è stata alle 7 di sera, sì. Via libera questa all'approvazione proprio della legge sulle consultazioni. Reazioni? Reazioni al momento, diciamo, non ce ne sono, perché si aspetta, come dire, l'approvazione, la firma del presidente catalano. Dall'Europa non ci sono ancora reazioni, anche perché, insomma, già possiamo dirlo, l'Europa ha tirato un sospiro di sollievo stamattina, tra l'altro, rispetto al referendum scozzese. Il più esplicito è stato il presidente dell'Europarlamento Schulz, che ha detto: sono sollevato dalla vittoria del no. Ma in realtà l'intero establishment europeo temeva una vittoria del sì, perché avrebbe letteralmente aperto una crisi istituzionale. La Scozia sarebbe potuta entrare a far parte dell'Unione Europea subito, oppure ci dovevano essere negoziati di adesione. Il rapporto anche con la Gran Bretagna, che già nel 2017 indirà probabilmente un referendum per chiedere ai suoi cittadini se rimanere o uscire dall'Europa. Insomma, sarebbe stato un grattacapo in più per l'Europa, molto molto forte, in un contesto di crisi economica già profonda che dà ben altri problemi. Leggo un messaggio di Nino che dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte: o l'Europa diventa un autentico Stato federale politicamente forte, o i fenomeni di fuga oggi minoritari diventeranno maggioranza con effetti nefasti per tutti noi. Dimmi una cosa, Sergio, sabato c'è un tuo Euroreportage. Sì, no? Domani mattina racconteremo un po' quello che è stato l'Ecofin e l'Eurogruppo informale di una settimana fa a Milano. Ripercorreremo, cercheremo di capire se si è trattato di un vertice della svolta. Lo si attendeva, no? Doveva varare il piano di investimenti da 300 miliardi o comunque per riuscire in qualche modo a far tornare a circolare soldi in questo continente così depresso dalla crisi. Ripercorreremo quel vertice, insomma, vedremo che alla fine... A che ora ci sarà il tuo 7:15. 7:15 con Sergio Nava. Sergio Nava, mi chiedo, ascoltatore, perché dici Sergio Nava? Perché era un po' arrotata. È un marchio di fabbrica. Un marchio di fabbrica tutto tuo. Col Moretto, ciao Sergio. Ciao. Viabilità. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Un sacco di notizie anche questa sera, ne avete sentito, abbiamo parlato anche con gli ospiti. Adesso ve ne riassumo alcune principali e tra poco ne toccheremo due, una insomma diciamo un po' così in fausta e un'altra invece piuttosto curiosa. Tra le notizie naturalmente lo scontro tra Renzi e i sindacati sulla riforma del lavoro con leader della CGIL Camusso che dice è come la Thatcher con tutte le conseguenze che ne potrebbero venire, dice Renzi, e Renzi dice siete voi che avete difeso le ideologie. Poi la Scozia che ha detto sì all'Unione, nel senso che il referendum è andato a vuoto, però con delle conseguenze comunque ci saranno di allargamento di competenze, di poteri e di agevolazioni per la Scozia. Il maltempo, di cui parleremo tra poco, con la bomba d'acqua sulla Toscana, il processo Mediaset una prima vittoria, per il momento, insomma, poi bisogna vedere, di Berlusconi con la Corte Europea di Strasburgo che esaminerà uno dei ricorsi appunto nell'ambito del processo Mediaset, e poi questo sbarco in borsa di Alibaba o Alibaba, poi ci faremo dire anche qual è la pronuncia, e l'orso ucciso in Abruzzo, il 61enne ha confessato, l'uomo che era indagato. Dicevamo quindi di questo maltempo, di questa ormai si definisce bomba d'acqua che ha colpito oggi Firenze e non solo, anche la Toscana. C'è per noi Ubaldo Cianciulli. Ubaldo, adesso si parlava di alberi sradicati, degli Uffizi chiusi per qualche ora poi riaperti, anche di una scuola non proprio a Firenze, crollata con dei feriti. Adesso com'è la situazione? Ciao Roberta, senti, ciao, per il momento si sta, diciamo, stiamo con le dita incrociate perché la bomba d'acqua di stamane ha dato una bella spazzata a Firenze in mezza Toscana e il sindaco Nardella oggi pomeriggio ha fatto una conferenza stampa facendo un po' il bilancio di quello che era successo, 8 allagamenti seri a Firenze, 5 feriti in codice giallo in provincia di Firenze, a Cerreto Guidi, alla scuola di cui faceva riferimento nel lancio, 19 segnalazioni di cornicioni e intonaci caduti, 23 segnalazioni di alberi danneggiati più o meno seriamente. C'è stata anche una scuola a Firenze, nel quartiere 4 a Don Milani, che ha visto parte consistente del tetto seriamente danneggiata, che è crollata. Per fortuna la scuola era già stata evacuata, altrimenti poteva essere ben più grave. Per il fatto che tra oggi e domani dovranno decidere come intervenire, se riaprire o meno la scuola la settimana prossima in parte o poi ce lo faremo dire anche dal colonnello Giuliaci tra poco che tempo farà nel fine settimana. Però Ubaldo, è vero che ci sono stati anche degli allarmi un po' contrastanti tra... Diciamo, questa è una delle due note. La nota di colore è sicuramente l'abbondante grandinata che ha steso su parte di Firenze, soprattutto nel centro storico, un tappeto bianco di grandine, ma anche a Prato ho visto io personalmente delle turiste straniere che facevano appallate di grandine oggi pomeriggio, una cosa sinceramente un po' strana. Poi l'altra cosa parecchio di colore, ci ha raccontato il sindaco, è successo stamani quando il cielo a Firenze si stava rannuvolando e la Protezione Civile aveva lanciato l'allerta meteo per temporali in arrivo che sono arrivati anche oltre le previsioni. Contemporaneamente sullo stesso tavolo era il comunicato del CIBIC, che forse più questa sigla dirà poco o nulla. Io vi dico che il CIBIC è il Centro Interdipartimentale di Climatologia dell'Università di Firenze, che ha lanciato un allarme rosso con codice rosso per emergenza caldo. Insomma, diciamo che si sono affacciati alla finestra e detto, aspetta, di che stiamo parlando? Hanno telefonato ai colleghi dell'università, ha detto, ma siete sicuri? Dice sì, c'è un'emergenza caldo. Effettivamente è scoppiato il nubifragio, è scoppiata la bomba d'acqua, dopodiché un sole caldo, perché effettivamente c'è stata una bomba di caldo a Firenze, ci siamo veramente sciolti. Quindi non era un ossimoro, tutte e due le cose compresenti ci sono state, un contrasto, Di clima non indifferente, poi concentrato nell'arco di poche ore e nell'arco di un territorio molto ristretto. Piuttosto sorprendente, ma il tempo di quest'anno ci ha abituati a stranezze. Grazie Ubaldo Cianciulli da Firenze. Ciao, intanto colonnello Giuliaci, ben ritrovato. Mario, ciao, Giuliaci. Sì, ben ritrovato anche a te e ai tuoi ascoltatori, eccomi qua. Colonnello, che tempo allora dopo tutte queste cose contrastanti, questa bomba che ci aspetta? Sì, è vero, diciamo che la parte peggiore di questa perturbazione l'abbiamo lanciata oggi al nord Italia, in particolar modo invece anche sulla Toscana, soprattutto sulla Toscana. Bene, questa parte più robusta della perturbazione ormai si è spostata verso Bacari, domani ci sarà la coda della perturbazione che ancora porterà c'è molto fatto di molti, già molto nuvolosi su gran parte del centro-nord, ancora rovesci qua e là, il pomeriggio su Venezia, zone interne del centro, ma senza fenomeni di rischio. Sempre domani invece caldo, rovente al sud, ove imperversa l'anticiclone nordafricano, con bel tempo ma con temperature intorno a 30 gradi e valori anche di 34-35 gradi sulla Sicilia. Nella sera poi bel tempo su tutta l'Italia. Domenica migliora in maniera ulteriore, ancora un po' cieli grigi al mattino al centro-nord e schiarita al pomeriggio. Sempre nel pomeriggio di domenica qualche rovescio sulle Alpi centro-orientali e le Venezie. Insomma, voglio dire, il peggio è quello di oggi, quindi domani e dopodomani ormai il peggio della perturbazione l'avremo lasciato alle nostre spalle. Un po' di sollievo, meno male, almeno per domani. Grazie colonnello Giuliacci, ben ritrovato, alla prossima grazie settimana. Grazie Roberta, un saluto a te e a tutti quanti ascoltatori, buonasera. E adesso invece parliamo di Alibaba, non so se i suoi ladroni o non ci sono, non credo che siano ladroni, ma Alibaba o Alibaba, Enrico Pagliarini? Alibaba. Cinese. Perché cinese? Non però, ci sono le accento. Però noi lo conosciamo come Alibaba e loro lo pronunciano a modo loro. Che cos'è? Allora, è un sistema di siti di commercio elettronico sostanzialmente. Tipo Amazon, eBay. Tipo Amazon e eBay, esatto. Hai però qualcuno l'aveva sentito citare finora? Beh, allora, se uno un po' bazzica su internet e magari acquista online, potrebbe aver acquistato cose dall'Italia alla Cina su Alibaba, però non è certo molto famoso. Diciamo che è diventato famoso negli ultimi giorni da quando è stata presa la decisione di andare in borsa a Wall Street, quindi nonostante sia un sito cinese, gli Stati Uniti sono ancora oggi la piattaforma principale finanziaria, quindi si va in borsa a Wall Street, è la più grande quotazione della storia. Hanno raccolto, pensa, quasi 22 miliardi di dollari. Sai quanti sono? No, non riesco, sai, con i numeri non ho molta dimestichezza. Adesso diamo un'occhiata. Baba è il codice con cui è stato che è stato assegnato ad Alibaba in borsa. Adesso sta facendo più 34%. Un successo pazzesco. Senti Enrico, però dietro c'è un uomo, un cinese, sì. che scusa, mi ricordo un po' E.T., devo dire. Sì, un po' bruttino, diciamo, non è proprio... magari non si offende, è anche un extra umano lui quasi, per essere riuscito a fare una cosa del genere. Tra l'altro era un professore d'inglese, invece si è messo nel suo garage, un po' come Steve Jobs, ha inventato questa cosa. Sì. Ora, se avete un garage, pensateci anche voi, potreste diventare miliardari se vi inventate qualcosa. Così, sì, no? Poi in Cina ci sono delle dinamiche diverse, diciamo, non è proprio che ci sia il libero mercato. Comunque, sì, lui è stato un ex professore di inglese, quindi sicuramente l'inglese lo ha aiutato in questo a operare su internet. Tra l'altro racconta che questo nome lo ha scelto un giorno in cui era a San Francisco, ha fatto un po' di domande e tutti lo sapevano, poi è un nome facile da pronunciare in tutte le lingue, insomma, probabilmente conosciuto. Ha detto che ha registrato anche Alimama, non solo Alibaba. Si sa mai, giusto, insomma, si sa mai, esatto. La parte femminile. E nel corso degli anni, adesso non stiamo a fare tutta la storia, è diventato il principale sito di commercio elettronico cinese, ma essendo che in Cina ci sono 1,5 miliardi, ufficialmente un po' meno, sì, però sappiamo che le statistiche molto popolose, sono, certo. E molti milioni di navigatori, pensa che questo sito ha 230 milioni, questo sistema di siti, perché ripeto, Alibaba è una, ci sono 3 o 4 siti di riferimento all'interno del network di Alibaba, 230 milioni di clienti e secondo alcuni esperti è probabilmente il più grande sito di commercio elettronico. Quindi fa le scarpe a eBay, Amazon, senza nessun, sì, ci sono tra i tanti, ci sono tantissimi numeri che potremmo citare, numeri pazzeschi, incredibili. Quasi tutti hanno il miliardo o i miliardi dietro. C'è chi dice che lo scorso anno il giro d'affari complessivo di Alibaba ha superato quello di Amazon e di eBay messi insieme. Quindi siamo di fronte ad un colosso incredibile. E a questo punto molti si domandano che cosa succederà dopo questa quotazione, perché con 22 miliardi di dollari in tasca, che fai? Jack Ma, questo personaggio che tu hai citato, vuole conquistare l'Europa, l'America. Senti, vedremo cosa teniamoci strette le borse. Senti Enrico, poi tu domani sei sempre con 2024, no? Sì, racconterò, ecco, a proposito di numeri, sì, racconterò alcuni numeri di Alibaba. A domani allora, grazie, ciao, grazie ciao. Enrico Pagliarini, noi ci sentiamo tra poco.